buon Ferragosto e benvenuti ai Fuori Posto. I Fuori Posto di Umberto Alezio e Filippo Roma. Io e te. Buon Ferragosto a tutti e benvenuti al primo programma della radiofonia nazionale nato per fini personali. Ricordiamolo, oggi è Ferragosto e voglio essere sincero. Sì, Umberto sta cercando di riconquistare la sua donna, sta sfruttando Radio 24 e non manca occasione per cercare di raggiungere il suo obiettivo, che purtroppo fino adesso non ha ottenuto risultati. Ma mai perdere la speranza, soprattutto a Ferragosto. Esatto. A proposito di Ferragosto, posso dire una cosa? Dimmi. Mi fa una gran tristezza stare qui con te il giorno di Ferragosto, quando tutti stanno al mare a divertirsi, a fare il bagno. Con questo caldo, no? Che tristezza. E secondo te, caro Filippo, a me oggi fa piacere stare con te? Beh, penso proprio di sì. In realtà no. Anzi, ti lancio un quiz, no? Vai. E tu da buon amico mi devi dire con chi mi sarebbe piaciuto passare il giorno di Ferragosto. Vai. Allora, opzione A, con Julia Roberts. Eh beh. Opzione B, Ciruzzo Tozzi. Mamma mia. Opzione C, la mia ex. La ex, giusto? Sì. E quindi io farei partire subito, anche il giorno di Ferragosto, il momento fuori amore. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure. Anche a Ferragosto, sì, fuori amore. Anche a Ferragosto. Effettivamente sì. È la serata, no? Dei falò, no? Intorno al fuoco, sì. Con la propria amata, col rumore delle onde del mare, la chitarra, le stelle. Cioè, mi devi far deprimere al massimo. Sì, in questo giorno di felicità, no, mi devi far deprimere al massimo. Oggi infierisco, sì, Umberto. E infatti c'è una novità. Oh, che novità? La novità è che ieri sono stato particolarmente male, ieri notte. Ah. Perché ho vissuto una notte particolarmente tormentata. Mi spiace questo, però. E dal tormento che nasce? L'arte, la poesia. Bravo. E non mi dire che adesso tu vuoi declamarla qui, su Radio 24, è fuori posto. Potrei? Dai, abbiamo fatto 30, facciamo 31, no? Facciamo sto 31, dai. Indovina a chi dedico questa poesia? Ho un leggero sospetto, la tua ex? Bravo, ci ho preso stavolta. Mi puoi fare una presentazione un attimo? Questa poesia ha un titolo? Sì. Ce lo puoi Ti dire? Ricordo che gradirei poca ironia, no? Poca ilarità, perché questa poesia è nata ieri, ero da solo, pensavo a Ferragosto, alla magia delle stelle, dei falò, della luna, al rumore delle onde, ai suoi occhi, al suo sorriso, e quindi ho vissuto una notte di tormento, e dal tormento, come giustamente ricordavi tu poc'anzi, nasce l'arte, la poesia, no? Puoi dirci il titolo? Se proprio lo vuoi sapere, sì, te lo dico. No, non voglio saperlo, però diccelo a sto punto. Il titolo è Amore mio, sì, in realtà sono proprio io. Oddio, sto titolo mi ricorda qualcuno. Mi ricorda un altro poeta. Allora, fammi una bella presentazione, vai. Umberto Alezio, nel tentativo bieco, perché sta sfruttando Radio 24, di recuperare il rapporto con la sua ex, cioè di riconquistarla, adesso declamerà una poesia dedicata a lei, dal titolo Amore mio, sì, in realtà sono proprio io. Caro amore mio, tu sei la vita mia. Perdonami se in questi giorni ho scherzato, ma io ti ho sempre amato. E anche se sì, lo ammetto, sono un coglione, tu sei e sarai per sempre il mio amore. Posso dire una cosa? Mi vuoi fare i complimenti? No, molto meglio le poesie di Ciruzzo Tozzi. Ma, caspita, quanto sei cattivo. Ti assicuro, molto meglio. Guarda che questa poesia nasce da una notte di tormento, eh? Vabbè, pensavo di riconquistarla con questa poesia, però insomma, vabbè, è Ferragosto, io non voglio rattristare chi ci ascolta, no? Entriamo in questo clima ferragostano dove tutti gli italiani si stanno divertendo, tranne noi, chi è al mare, chi in montagna, chi è all'estero, nelle isole, no? Sì. Oggi andiamo a Mykonos. A Mykonos in Grecia, che bello. A Mykonos in Grecia, e abbiamo l'onore, in esclusiva, sempre qui per Radio 24 e per i Fuori Posto, siamo riusciti a convincere The King of Mykonos. Niente proprio di meno. Sì. The King of Mykonos è in realtà Sasa di Potenza, un ex pare poliziotto che ha appeso al chiodo la divisa di poliziotto e anima le notti e i pomeriggi danzanti di Mykonos. Ed è qui con noi? È qui con noi e ci spiegherà come funziona il divertimento a Mykonos e come funziona soprattutto la moda del momento, no? La guerra dei tavoli. Sai che cos'è la guerra dei tavoli? No, mai sentita, che roba è? Perché certo, tu sei anziano, sei vecchio, sei out. Te lo dico io, la guerra dei tavoli è fare la guerra con lo champagne. Cioè, comprano bottiglie di champagne costosissime molti ragazzi e se lo spruzzano, no? E si fanno la battaglia con lo champagne. Ma a spiegarcelo meglio sarà il mitico Sasà, the king of Mykonos. Ci sei, Sasà? Benvenuto ai Fuori Posto. Ragazzi, buongiorno, un saluto particolare a Radio Rai. No, stiamo su Radio 24, Sasà, no Radio Rai. Ah, Sole 24, Radio 24. No, che Sole 24, quello è il Sole 24 ore. Non mi riconosco neanche su Google, a dire la verità. Perché tu sei il re di Mykonos? Il re di Mykonos essenzialmente perché unisco i popoli e li faccio divertire, li faccio dimenticare i problemi che la vita offre tutti i giorni, vengono da me, staccano la spina ed è solo felicità. È addirittura? Solo amore, la mia libertà finisce dove inizia la loro, uniti sotto un solo segno. Hai capito? Lui bello, è come bello. Le Nazioni Unite del divertimento. Tu sei l'ONU del divertimento. Ecco, che cosa fai per far divertire la gente? Dico delle cose al microfono meravigliose, sentite dal mio cuore perché l'ho attraversate prima nella mia vita e cerco di trasmetterle ai nuovi giovani. Prima di diventare the king of Mykonos, no? Che lavoro facevi? Ho fatto l'arbitro di calcio fino alla Canci, cioè vale a dire alla Serie C. Ho lavorato nella Polizia di Stato per circa 10 anni, anzi forse qualcosa in meno. Hai capito? Hai capito in che mani stiamo? E adesso niente, a Mykonos, adesso però ho in progetto di farmi una famiglia. In che senso una famiglia? Cioè nel senso mi vorrei fare la mamma e poi la figlia. Però che la figlia, che la figlia non abbia 17 anni, dai 18 in su. Diciamo solo maggiorenni. Sì. Va bene, va bene. Sasà, quali sono queste frasi che tu lanci? Queste canzoni, queste melodie. Queste melodie per... Ma poi sono, devo essere ispirato. Adesso il mio pubblico sta riposando in spiaggia. Devo Vabbè, essere, ma per esempio, per chi ci ascolta a casa, fai sognare, è il giorno di Ferragosto. Così, cioè, tipo, se vedo una ragazza così tutta timida, mi viene voglia di dirle, dietro una gatta morta si nasconde una zoccola viva. poetico diciamo. Come diceva Platone. Mi si è presentata... Ciao Sasà, sono brava, sono fidanzata in Italia. Questo alle 4 del pomeriggio, alle 8 di sera l'ho trovata appartata sotto un ombrellone e le ho detto: guarda, amore mio, perdonami, ma sei talmente puttana che in casa ti hanno costruito un marciapiede. Ma scusa, appartata sotto l'ombrellone con un altro ragazzo? Sì, cioè, ma 5 kg di formaggio, una pecora in omaggio, cioè da lì. Che belle queste rime. Ma cioè, lui è meglio di Aristotele. Molto meglio. Ma, in tutto questo, Sasà, immagino che anche tu rimorchierai parecchio. Ma io lo ammetto, cioè io non sono sposato, sono single. Beh, che cosa fai? Ogni giorno cammina una donna? Come la tua giornata? No, così sarei un uomo oggetto, assolutamente no. Ah, ecco. Però tipo i primi anni di esperienza ero un cavallo, adesso invece è un po' di anni che mi sono fermato in box perché appunto... Cioè sei più riflessivo? Ma no, ma se voi tutti i giorni mangiate spaghetti al pomodoro, dopo il decimo giorno vuoi cambiare, no? Ok. E quindi cerco comunque di farmi una storia. Senti, come passerete il giorno di Ferragosto lì a Mykonos? Sto organizzando un'animazione da paura, praticamente metto 8 donne tutte nude con una foglia che copre la parte intima. Ah, vabbè, quindi la parte intima è coperta e salva. Non male, però, bisogna dirlo. Però siccome qui c'è sempre vento, quindi la foglia vola via. Perfetto. Mi sembra di capire che i presupposti del divertimento lì a Mykonos ci sono tutti, giusto? È per forza. Allora, caro Filippo, Sasà, no, io l'ho visto in opera e... Molti lo definiscono The King of Mykonos, perché lui è diventato in poco proprio il re dell'isola, no? Ma lui ama definirsi in un altro modo, giusto Sasà? Esatto. Come ami definirti tu? Amo definirmi il magnifico rettore dell'università al divertimento. Magnifico rettore? Ad honorem. Laurea ad onore. Ascolta Sasà, ma se uno viene al tuo locale, no, al Tropicana, ma si rimorchia? Si ottiene qualcosa con le donne? Facile. Ah, addirittura facile, perché? Paragonato a una scommessa calcistica al Tropicana, al Tropicagna, si rimorchia 1.10, cioè, proprio facile. Diciamo, risultato garantito. E perché così? Ora da quest'anno ha lanciato la moda che tutti i turisti vengono con la ciotolina e io lancio croccantini. Senti, e perché è così facile dimorchiare al Tropicana? Perché è pieno di cagni, perciò ci sono i croccantini. Scusa, Sasa, raccontaci un pomeriggio tipico lì al Tropicana Beach, a Mykonos. Inizia con la musica alle 16.30, alle 19.30, alle 20 sono già belli tutti pieni e vanno tutti sotto gli ombrelloni a guardare le stelle. Ah, addirittura? Tutti, dopo le 8 di sera. All'imbrunire il Tropicana diventa... un luogo fantastico di divertimento, di perdizione, di sesso. Di perdizione totale. Ah, addirittura. Mi sta venendo voglia di andare. Cioè, tu mi stai dicendo che se veniamo io e Filippo lì al Tropicana e tutti quelli di Radio 24 rimorchiamo al Tropicana Beach, a Mykonos? Pure noi? Dovete venire con un gran bel rimorchio. Addirittura? Sì. Senti, Sasa, mi dicevi che c'è bella gente che spendono tanto, no? C'è un gruppo di ragazzi di Napoli che mi fa tavoli tutti i giorni, spendono 4.000 euro. Allora fai una cosa. Pettinatissimi. E poi dei ragazzi di Bari che mi fanno tavoli da 5.000 al giorno. Porca miseria. 5.000 euro? Al giorno, sì. E cosa prendono? Prendono bottiglie da 10 litri di champagne, queste cose qua, che poi le vedete anche su Facebook. Allora fai una cosa. Ci puoi passare al volo qualcuno di questi che spende tanto? Sì, ti passo al volo questo ragazzo di Napoli che spende tanto. Quindi... ci tuffiamo nella guerra dei tavoli. Sì, fanno la guerra di champagne, cioè se lo spruzzano addosso. Bellissimo, bellissimo. Passaci qualcuno di questi. Ti passo un ragazzo ragazzi. Di Napoli, un ragazzo di Bari. Ok, il perfetto. Il top di Napoli, il top di Bari. Vai, vai. Ciao, come ti chiami? Lorenzo. Lorenzo, quanto hai speso ieri sera al Tropicana? Ieri abbiamo speso 5.500 euro. E che cosa hai consumato per spendere così tanto? Che ti sei preso? Abbiamo preso due Magnum di Belvedere da 3 litri e una champagne. Sì, è una 25-30 ml più o meno. E quanto costa una bottiglia di champagne? 150-160 euro. Ah, ottimo, ottimo, ottimo. Quindi quanto hai speso ieri sera in totale? 5.500 euro. Senti, ottimo, ottimo. E che fai nella vita? Io studio a Londra. E come fai a avere tutti questi soldi? No, è perché dopo un anno di tanta fatica e di reclusione a studiare, fortunatamente i nostri genitori ci concedono un paio di settimane di lusso. Vero, e anche svariate migliaia di euro, mi pare di capire, vi concedono. Vabbè, però non è che lo facciamo in due o tre persone, siamo un gruppo di 10-15 ragazzi che ci divertiamo comunque. Senti, quest'anno sta impazzando, no? Anche su internet si vedono un sacco di filmati, la guerra dei tavoli. Ci spieghi che cos'è la guerra dei tavoli? Praticamente si comincia con qualcuno, diciamo i più ubriachelli cominciano a spruzzare un po' di champagne sugli altri tavoli e ovviamente arrivano le risposte e poi la guerra non finisce mai, e a chi ne spruzza di più. Ah, cioè vi spruzzate le bottiglie di champagne, così, a go-go. Sì, sì. E tu sì, ieri sera perché... l'hai fatta la guerra dei tavoli? Ovviamente sì, ovviamente. Beh, come non farla? Che domande fai, Umberto? Abbiamo vinto anche perché noi di Napoli lo sai, vinciamo sempre. E chi ha più ottimo. Champagne vince, immagino. Ottimo, chi... ottimo, ottimo. Allora, dai un consiglio a chi ci ascolta da casa, no? Sì, un consiglio. Venite al Tropicana, diventate amici con Sasà, prendete tante bottiglie di champagne e sarete circondati da ragazzi di tutti i generi, modi, tipi, colori, nazionalità, qualsiasi viva cosa. L'amore, viva l'amore, l'amore. E senti, viva l'amore. Ieri viva sera sei riuscito a rimorchiare? No, io sono fidanzato, felicemente. Ah, vabbè. Quindi, ma la tua ragazza è lì? Ovviamente no. Ah, allora che sta a farli, scusa. Però io ovviamente mi diverto solo e non faccio niente, non arrivo a concludere nulla. Sei integerrimo, va bene. E noi ti crediamo. Sì, come no. Vabbè, dovete. No, certo. Ci passi qualche altro gentile ospite ti lì al Tropicana Beach? Ti passo un ragazzo di Bari che è il top del top del sud Italia. Allora ci colleghiamo con il top del pop. Che onore, pronto? Come sono ti chiami? Nicolò. Quanti anni c'hai, Nicolò? 23. Nicolò, ieri sera quanto hai speso al Tropicana? 6.000. Ah, 6.000 euro? 6.000 euro. Ieri ci dovevamo divertire. E cosa ti sei preso? Abbiamo preso una Magnum di Belvedere, due Magnum di Belvedere, due Magnum di Dompe e poi tutti i clicò possibili immaginabili. Tutto champagne, Dompe e Dom Perignon? Sì. Ottimo, Dom ottimo. Perignon. Senti, Nicolò, hai fatto anche tu la cosiddetta guerra dei tavoli? Quella la facciamo da tanti anni. Senti, per tutti quelli che ci ha insegnato Sasà che dobbiamo fare la guerra dei tavoli. È un maestro, è un maestro. Sasà è un ottimo maestro e un guru. Allora, dai un guru della guerra dei tavoli. È il guru della guerra dei tavoli. Allora, dai un consiglio per chi ci sta ascoltando in questo momento per vincere la guerra dei tavoli. Prima di tutto lo vogliamo in Italia, Sasà, lo vogliamo al posto di Renzi. Ah, addirittura. È lui che deve essere il presidente del consiglio, ce la spassiamo tutto l'anno. Allora fai una cosa, io chiedo ad Andrea dalla regia di far partire una musica istituzionale. Nicolò, tu fai un appello, vai Nicolò, i microfoni dei fuoriposte di Radio 24 sono a tua disposizione. Perfetto. Volevo solo dire una cosa, alle prossime elezioni vota e fai votare Sasà. Renzi mandiamolo a casa, perché in Italia abbiamo bisogno di Sasà. Giustissimo. E di sorridere. Giustissimo, che grande proposta politica. Ha ottime possibilità Sasà di diventare presidente del Consiglio. Scusami. Vota e fallo votare. Vota e fallo votare. Dico un'ultima cosa, ma cosa fai nella vita per avere tutti questi soldi da spendere in champagne? Lavoro. Cosa fai? E quindi dopo un sacco di lavoro sono un imprenditore. Ah, un imprenditore. Ah, okay. Scusa Nicolò, tu da quanti giorni sei a Mykonos? Sono arrivato ieri. E ieri già hai rimorchiato? Beh, amico, non si può fare altro che rimorchiare. Quindi poi ci dà una grossa mano. Ah sì? Da meno di 24 ore quante ne hai rimorchiate fino adesso di ragazze? La sorte me ne ha volute donare tre. Ah, addirittura tre. Sono un buon numero. Di dove? Di dove queste ragazze? Di dove sono? Due italiane e una spagnola. Quindi bipartisan, vedi? Italia è contenta. Sei europeista tu. Quindi Nicolò per il momento è su un 3-0, giusto? 3-0, sì, non c'è partito. 3-0, speriamo di arrivare a 15-0. Senti, Nicolò, perché Sasà è il top del top, come l'hai definito prima? Perché è una persona che ride sempre, una persona felice, una persona che sa dare felicità ed è una persona che ha dei valori veri. Ma allora fai una cosa, facci un saluto, dici io Nicolò a Mykonos, anche io faccio la guerra dei tavoli e sono un fuoriposto, vai. Sono Nicolò. Anche io sono in vacanza a Mykonos e partecipo alla guerra dei tavoli e sono un fuoriposto. Ottimo. Senti Nicolò, perfetto. Saluta tutti quelli che ci ascoltano e invitali a venire a Mykonos a fare la guerra dei tavoli. Ragazzi, vi saluto e vi invito a Mykonos e veniamo a fare la guerra dei tavoli. Ottimo. Tutti a Mykonos a fare la guerra dei tavoli con Nicolò e tutti gli altri. Ripassaci Sasà che lo salutiamo. Perfetto, arrivederci. Ciao Nicolò. Pronto Sasà? Pronto. Sasà, ammazza, c'è un clima rovente, anche stasera guerra dei tavoli allora. Sì, ci sono circa 35-40 tavoli che si bagnano con lo champagne. Ah, si bagnano con lo champagne, pensa. Questo è il periodo dei messicani, tutti i ragazzi diciottenni messicani che hanno finito la scuola, ne ho tanti. È il periodo dei ragazzi del Kuwait, Qatar, del Saudi Arabia. Tutto il mondo. Senti, Sasà, sì. Hai una ragazza da passarci, visto che abbiamo ascoltato due ragazzi? Passo un'altra turista. Sì. Pronto? Pronto? Pronto, come ti chiami? Sono Giorgia. Giorgia, ciao. Ti stai divertendo a Mykonos con Sasà? Sì, mi diverto moltissimo, guarda. Tutti i giorni, allora, la giornata inizia così, mattina in spiaggia, Paradise, una delle spiagge più belle, mare cristallino. Sì. Si prende il sole, si mangia benissimo, poi arriva Sasà che ci intrattiene, ci dona la sua compagnia. Ah, solo la compagnia divertire. Vi dona? Sì, è chiaro. Anche un bel sorriso ci dona. Ok. Senti, tu hai rimorchiato qualche ragazzo, hai concluso con qualcuno ieri sera, in questi giorni? Sì, guarda, qua si conclude sempre. Si conclude non sempre. Non si dorme mai. Sempre sì, più interessante questo mai. Posto. Da quanti giorni sei a Mykonos, Giorgia? Guarda, io sono una vacanziera lunga, sono a Mykonos da un mese. E quanti ragazzi hai rimorchiato? Ho perso il conto. Addirittura. Hai capito? Cioè, quasi uno al giorno, uno diverso al giorno? Scusa, ma se io e Filippo veniamo lì, c'è una possibilità pure per noi? Mo io sono tu innamorato. Filippo? Sì. Sei innamorato di chi? Sei innamorato dell'amore? No, della mia ex, vabbè, tutta una storia lunga. Guarda, ti do una massima. Vai. Chi gioca a perderti, lascialo vincere. Io con questa massima, che saggezza, l'ha mollato lei, quindi insomma il problema ha mollato lei, ma mollala pure tu, che così si renderà conto di che cosa fa. Va bene, vedi, un consiglio sensato. Va bene, senti, l'ultima cosa, tu vieni qui, sì? Si diverte, si dimenticano tutti i problemi, e come dice il Platone, nostro fratello Sasà, ah, no, sui bicchieri, sui pensieri. Ottimo, che ottimo. Massima, che ottimo. Massima. Scusa, a proposito senti di qua, cioè... A proposito di sui bicchieri, sui pensieri, anche tu hai fatto la guerra dei tavoli? Certo. Vabbè, che te pare, Non si può non farla. Perfetto, allora, dopo questa massima io ti direi di ripassarci Sasà, che lo salutiamo. Va bene, ciao. Ciao. Pronto? Sasà, grazie di tutto, grazie per questo collegamento. Ciao Sasà. Ciao, ciao, ciao. Vabbè, sai che ti dico? Io a sto punto faccio le valigie e me ne vado a Mykonos da Sasà. Domani la trasmissione la fai da solo. Ah sì? Sì, ciao. Ma, Filippo, sì. Ma dove vai? Oh, manca ancora un mese. Ciao Umberto, ti saluto. Oh ragazzi, questo se ne sta andando. Ciao, vabbè. Ciao. Se il risultato è garantito, io vado, scusa. Ti ricordo che sei un uomo sposato. Comunque, segreteria telefonica 0246524182. Oppure, se volete, potete lasciarci un messaggio alla segreteria telefonica che è 0246524182. Oppure WhatsApp al 349-2386-666. E non vi dimenticate del nostro profilo Facebook, I Fuori Posto. Noi che facciamo, Umberto? Ci sentiamo noi, tra poco. In questa calda giornata di Ferragosto, restiamo qui, instancabili, e torniamo tra pochissimo, sempre qui su Radio 24 e Fuori Posto. Che persone serie che siamo. Serissime. Perché ci piacciono i giochi di squadra? Si gioca per sé o per gli altri? A che cosa serve un allenatore? Le domande dei più piccoli, le risposte dei più grandi. Sono Federico Taddia e vi aspetto a terra in vista le Olimpiadi spiegate a mio figlio, insieme al filosofo della scienza, Telmo Pievani. Il mito, la vittoria, il limite, la corsa, ogni puntata una parola per raccontare lo spirito olimpico. E non solo, tante storie e curiosità, e poi le nostre rubriche come Non battere la fiaccola, le animaliedi e la scienza nello sport. Terra in vista, ogni domenica alle 9. Perché l'importante non è vincere, è ascoltare. Il mondo visto dai ragazzi. In questi mesi Radio 24 ha dato spazio alle voci di Radio Immaginaria, una web radio gestita da studenti delle scuole superiori di tutta Italia. L'appuntamento dal vivo è per il 10 e 11 settembre con la Team Parade a Castel Guelfo di Bologna. Un meeting sul lavoro spiegato dagli adolescenti. Ci sarà anche un evento speciale con il nostro Federico Taddia. Info su radio24.it. I Fuori Posto. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. Eh sì, bentrovati sempre su Radio 24, e Fuori Posto. È Ferragosto, il più brutto Ferragosto della mia vita. Non solo mi ha mollato la mia ex, ma mi tocca lavorare con Filippo Roma davanti. Perché te pensi che invece per me sia un bel Ferragosto, no? Se penso che questa è la sera dei falò, dei baci di fronte ai falò, dell'amore, del romanticismo. Oddio, non mi ci fa pensare. E io sto che qui bello, con te a Milano, bello, da solo, come un disperato. Ma visto che siamo solo io e te, perché non facciamo un piccolo falò sull'idroscalo stasera almeno? Io e te? Eh sì, dai, almeno, meglio di niente. E poi ci diamo un bacetto? Ma vediamo, intanto facciamo un piccolo focherello sull'idroscalo. Non è il massimo, però è il nostro più brutto Ferragosto, Umberto, diciamolo, dai. Io e te davanti al falò, sì, all'idroscalo. Sì, sì, sì, sì. Almeno, no, regaliamo qualche secondo di bella musica di AVC, che peraltro anche lui vuole intervenire in diretta ai Fuori Posto. Sì, ma mi sta sulle palle, quindi no. Peraltro ci ha chiamato da Ibiza, dove sta facendo varie serate. Stesse là, non me ne frega niente. Non regaliamo 5 secondi di AVC. Vai. A chi ci ascolta. E invece pensa la gente sotto, sì, l'ombrellone qua dentro. Senti, invece qual è stato il tuo Ferragosto più bello? Ma il mio Ferragosto più bello è stato ovviamente con lei, quindi di notte, con la luna piena. E pensa, io un po' l'avevo appena conosciuta e secondo me un po' c'è cascata perché era buio, quindi non mi vedeva benissimo. E invece qual è stato il tuo Ferragosto più bello, caro Filippo? Il Ferragosto più bello è stato quando ho dato il mio primo bacio. a 17 anni. A quella tardi. Che è tua moglie? A quella che oggi è mia moglie, perché la prima donna che c'è stata, io me la sono sposata, perché è diventata a un certo punto un'alternativa all'attività di autoerotismo che contraddistingueva la mia esistenza. Ricordiamo che Cristiana sta per lasciare Filippo perché ha grandi problemi sessuali, questo lo possiamo dire, tanto grazie, è Ferragosto, lo ha dichiarato a noi di Radio 24, e approfittiamo per chiederlo a chi ci ascolta, no? Qual è stato il più bel Ferragosto della vostra vita? Sì, scrivetecelo ai fuoriposto chiocciola radio24.it oppure pagina Facebook, sì, i fuoriposto. Vai, che oggi è Ferragosto, pagina Facebook, i fuoriposto. Comunque, per fortuna, anche se è Ferragosto e stiamo solo io e te, potremmo collegarci con una ragazza che cerca di fare politica, bella politica, no? Quella a servizio dei cittadini. Quella in Parlamento? Quella reale, quella sì, da deputato. Vabbè, da senatore, allora ho capito, anche oggi ci tocca collegarci, no? Con la nostra fuoriposto molto speciale che viene dal web, ma in realtà ormai si è candidata, fa dibattiti, conferenze, no? Martina, ci sei? Sì. Come sei contenta oggi? Cos'è successo? Com'è, sei così entusiasta? Bene, no, oggi sto bene. Mi stavo così godendo una bottiglia di Cristal. Tutto molto bello. Il Cristal che? Cos'è il Cristal? Il champagne. Cristal è uno champagne. Cacchio, ma tu non Filippo. Ti puoi permettere. Però grazie, niente, costa parecchio una bottiglia di Cristal? 300 euro. Ma dove ti trovi? Dove lo stai sorseggiando? In che posto? Sono in vacanza da un amico in una località esclusiva che non vi dico, se no ci vengono i poveri. Qual è? Come ci vengono i poveri? Beh, se un povero riesce a raccattare i soldi per venire, che problema c'è? E se io dico dove sono in vacanza, cioè se dico quali sono i miei posti esclusivi, voi non lo sapete, ma i poveri risparmiano tutto l'anno per poter andare a invadere i posti dei ricchi d'estate. Ma scusa, ma non è bello che nei posti, no, nell'era della globalizzazione ci devono stare ricchi, poveri, ma tutte le razze? Ma per forza, però in posti separati, dai. Come posti separati? Che vogliamo fare? Sei razzista? Razzista? No, assolutamente, per me tutti devono esistere, stare, però lontani. Scusa, noi, il nostro programma si chiama I Fuori Posto, no? Faccio un esempio, è come per dire le zanzare, cioè non è che io le odio e le voglio tutte morte, però se ci sono in casa mia le schiaccio, cioè non devono stare accanto a me. E tu vorresti schiacciare i poveri? No, devono stare lontani, poi io non mi posso schiacciare, figurati su poco. No, non sono d'accordo, perché il nostro programma si chiama I Fuori Posto, proprio perché noi diamo voce a tutti, cioè ricchi, poveri, alti, bassi, grassi, magri, brutti, belli, tutti. Porelli. Ma che porelli? Ma poi ce l'hai con questi porelli? Tipo la Caritas, fate una missione sociale, questo è super stimabile. Martina, già hai esordito male perché hai detto il Cristal, no? Cioè, perché io a me piace il Tavernello, che ce l'hai con quelli che bevono il Tavernello? No, assolutamente, ma è giusto che ci siano persone che bevono il Tavernello, perché altrimenti non ci potrebbero essere persone che bevono il Cristal. Allora, se ci credi, dillo anche tu, anche io, Martina dell'Ombra, bevo un buon bicchiere di vino Tavernello. No, io no. Come no? Ma Martina, poi una cosa. Io bevo solo champagne, un vino di un certo livello. Mamma mia, questa è matta. Tu vuoi fare la politica, ma i poveri votano. I poveri votano, e quindi dovrebbero votare anche te. Se tu fai così non te votano i poveri. No, perché i poveri comunque devono essere guidati, hanno bisogno di una guida che gli insegni come diventare piano piano ricchi. Per l'estate, no? Dacci qualche idea, no? A tutti quelli che ci ascoltano, a tutti gli ascoltatori di Radio 24, cosa potrebbero fare per, visto a quelli che c'è, sono rimasti in città? Quelli che sono rimasti, visto che hanno pochi soldi a disposizione, c'è la crisi, insomma, la gente ha lavorato tutto l'anno, no? Un rimedio per svagarsi, no? Diciamo che questo di solito è un periodo di saldi, di grossi saldi. Che c'entrano i saldi? Sono un po' un problema, perché portano le persone tutte delle campagne, vengono in città, al centro, invadono. Però si potrebbe fare una cosa. Io in realtà ho fatto una proposta, una proposta di legge? Finalmente qualcosa di concreto! Sì, ho fatto per il comune, ho raccolto le firme. Scusa Martina, fermati. Allora, ci stai dicendo che tu hai elaborato una proposta di legge, no, per le classi più deboli, giusto? No. Allora, è una proposta, sai quelle cose che si scrivono e poi si propongono al comune, come si chiama? Petizione? È una petizione. Ah, una petizione, è già qualcosa. Va bene. firmata anche delle persone. Oh, che bello, hanno che bello. Proposta al comune di Roma per spostare i saldi nelle periferie delle città. Così che lì si possano concentrare tutti i paesani che vanno per saldi. Ma il paesano non ha il diritto di andare in centro? Ma il paesano non c'ha il diritto di andare in centro, vedere le belle vie del centro di Roma, Piazza di Spagna, Via Condotti? Sì. Allora sì, però se viene singolarmente, non ad invasione tipo le cavallette, e non se viene per i saldi. Perché intanto questa cosa è impossibile, perché come sai, alcune griff, alcuni marchi, no, sono solo in centro, quindi Come fanno? Tutti devono avere il diritto di frequentare certi negozi. Non è così, perché alcuni marchi, quelli top di livello, che giustamente stanno in centro, non li fanno i saldi. Ma che c'entra? C'è Chanel che è sicuro che i saldi non li fa, li fa perché la gente ricca non ha bisogno dei saldi, è giusto così. Quindi i marchi operai se ne vanno tutti quanti in periferia a fare i saldi nella periferia. Ma che dici? E così stanno tutti in periferia. Quindi, e possono restare la borsa di Louis Vuitton non se la può comprare un operaio, ma che dici? No, Louis Vuitton nello specifico ha fatto le borse per le operaie, quindi quelle borse che costano meno di tipo 500-800 euro. Però soltanto ne ha fatte tipo 3 che costano così poco, le altre costano normale. Guarda, allora che vogliamo fare? Vogliamo costruire un muro intorno alla città, al centro di ogni città? Scusa? No, il muro devi dividere, come ho già detto, Roma Nord da Roma Sud. Ma scusa, la politica lotta per abbattere le barriere, no? Certo, più abbattute di così. Ma che abbattute di così? Allora, il muro di Berlino, no? Quando hanno abbattuto il muro di Berlino, è stato un segnale forte per tutti, no? Di libertà, democrazia. Democrazia, libertà dal comunismo, dall'oppressione. Io vi dico una cosa, che la Germania ha avuto un muro per un sacco di anni ed ora è super potente e ricca. Ma perché non questo ce l'ha più? Finalmente non ce l'ha più. I muri fanno bene. Ma l'ho avuto un sacco di anni. Niente, non c'è speranza, Umberto. Non c'è speranza. I muri fanno bene. I muri fanno bene. Ascolta, Martina, visto che siamo in estate e purtroppo in estate diventa molto caldo il tema dell'immigrazione, no? Perché aumenta la frequenza degli sbarchi nelle nostre coste. No? Tu, da politico, no? Come vedi, come fronteggi il problema dell'immigrazione e se si può arrivare all'integrazione, no, degli immigrati nel tessuto sociale italiano? No, assolutamente il problema dell'immigrazione è un grosso problema che si deve affrontare. Secondo me di metterli tutti assieme in un unico posto, preferibilmente nel sud delle città o nelle zone. Questa cosa si chiama lager, non si può fare. Ma poi tu ce l'hai col sud, col termine sud. No, il sud, cioè nel senso sì, io ce l'ho tipo un po' con Roma Sud, ma magari in altre parti delle qua a Milano, anche Milano Nord è periferia tremenda. Ci sono un sacco di persone che vivono nelle periferie. Ma che vuol dire Quartogiano? Ma a Quartogiano ci sono un sacco di persone per bene. Perché così parlano la stessa lingua, hanno gli stessi usi e costumi, non devono soffrire Ma tu vuoi creare un ghetto? No, io voglio creare un posto dove loro possono stare tutti insieme tra di loro. Ma gli immigrati non dovrebbero integrarsi con il resto della società, trovare un posto di lavoro? Sì, poi vengono al posto di lavoro e poi tornano a casa dove stanno tra di loro. Scusa, ma che ne so, un ragazzo che è qui da solo, no? Sì. Magari si può fidanzare pure con te, certo. No? Perché ti conosci in centro, in città, vi andate a prendere un caffè, andate a cena fuori, no? No, con me è impossibile, però non... Ti fidanzeresti mai con un ragazzo di colore? Non escludo che con qualche ragazza di Garbatella, magari... Sì, ma che vuol dire di Garbatella? Garbatella, è un quartiere di Roma dignitoso, cos'hai contro la Garbatella? È il quartiere, vi dico solo che è il quartiere da cui viene Giorgia Meloni. E beh, che problema c'è? Perché mo che ce l'hai pure con Giorgia Meloni? No, però lei ha dovuto fare una lunga scalata sociale, porella. Appunto, bello, è bello, era una persona che dal basso... Perché veniva, appunto, perché stava... L'ha detto lei che Garbatella è in basso. Che ce l'hai con Giorgia Meloni? Scusa, ma è una ragazza che credo che abbia fatto pure la babysitter, no? Sì, Giorgia Meloni. A parte ragazza 20 anni fa. Ma l'età non conta, chi se ne frega. Questa cosa è cattiva da parte tua, no? Sei anche un po' volgare, perché insomma non si offende una donna per l'età. Ma non è bestia, che devo dire? Ma non è vero, quanto ci avrà? 40 anni? Ma neanche 40 anni, ma poi cosa interessa l'età? Il politico deve essere bravo a prescindere dall'età, non ce ne frega niente quanti anni ha un politico, no? Però voi l'avete chiamata ragazza, io dico, cioè, ragazza gli piacerebbe, 20 anni fa era una ragazza, adesso è una donna. Beh, una donna piacente anche, no? Posso lanciare una domanda a casa? No? Vai. Vi piace più Giorgia Meloni o Martina Dell'Ombra? Vediamo che ci rispondono. Va bene. Adesso ti sei messo in competizione con una politica affermata. Certo, assolutamente. Però non ti fa paura sta cosa? No, perché io le mie idee sono molto più forti e poi c'ho anche le tette più grosse. Ma che c'entra? Ma tu ti devi confrontare con le idee, appunto, con un altro politico, non con le tette. Vabbè, ma io sto più grosse tutte e due, sia le idee che le tette, quindi ho super guarda. Non c'è speranza. Con Martina non c'è speranza, guarda, le tette, le idee. Io non so quanta gente potrà mai votarti, Martina, sinceramente. Un sacchissimo, c'è un sacco di persone che mi scrivono ti voto, ti voglio votare. Ma scusa, non ti interessano i voti di Roma Sud, appunto, ad esempio? Mi interessano i voti di coloro che da Roma Sud si vogliono affrancare e diventare cittadini civili di Roma Nord. Guarda, siccome l'argomento Roma Sud e Roma Nord è caldo, no? Sì, io sì. Lo affronterei, se sei d'accordo, Martina, in una delle nostre prossime puntate, no? Sì, va bene, però, va bene. Però ti chiedo, no? Ti chiedo, noi ti abbiamo chiamato come la nostra esperta di fuori politica, no? Perché pensavamo tu fossi una fuori posto, no? No. In realtà dici delle cose effetti, pericolose. Questo devo essere sincera, io in effetti non sono una fuori posto, io sto sempre al posto giusto. Vabbè. E Martina, noi sul posto giusto ci fermiamo. e ci sentiamo presto, non lo so se potremo ancora sentirti. Un chissino a voi e a tutti gli ascoltatori. Ci ritroviamo tra poco, sempre qui su Radio 24 e Fuori Posto. Che fatica, Martina, ciao. Vabbè. A volte basta accendere la radio per ritrovarsi comodamente seduti al cinema. Sa perché mettono le maschere d'ossigeno sull'aereo? Per poter respirare. L'ossigeno ti fa sballare. Una storia speciale che assomiglia un po' a un film, un po' a un romanzo e un po' a un ricordo personale è qualcosa di unico che può arrivare solamente attraverso la radio. Ehi, bentornato a casa, Vic. Grazie. Che effetto fa la libertà? Piacevole. Sembra niente, ma è proprio così. Audiogrammi Reloaded. Una storia come non l'avete mai ascoltata. Di Paolo Corleoni e Laura Faggin. Sabato alle 15 e domenica alle 23 su Radio 24. E in podcast su radio24.it. I Fuori Posto. Non si ha ricordo quando era strano. Che la faccia padana non sia perché non ritorni come so tristi sti giorni. Quando si parla di Nunzia, quando si sente tremo, di Nunzia, tremo, mi viene la pelle d'oca quando si parla di Nunzia, perché Nunzia è uguale economia. Nunzia uguale realtà Nunzia uguale fuori economia, giusto? Molto fuori economia. Quando noi parliamo di fuori economia, no? Ahimè, ci tocca collegarci, no? Con il nostro esperto, no? In realtà esperto di musica, ma prestato all'economia. Ciruzzo Tozzi, ci sei? Pronto? Un attimo solo, ragazzi, Sto parlando con Barbara D'Urso, ragazzi. Ma quale Barbara D'Urso? Ma che dici? Ragazzi, non lo faccio aspettare a spese, non si mette a piangere. Ma Ciruzzo, ma stai Radio 24? È Filippo Roma, non Barbara D'Urso. Ragazzi, sono a Mediaset, un attimo solo, ci vediamo dopo. Ok, pronto? Pronto? Ciruzzo, ti ricordo, ragazzi, che non siamo Mediaset, che stai dicendo? No, ragazzi, ho detto così perché diciamo la verità. Radio 24 non è che è una radio tanti, l'ho detto un'altra volta. Lo so, appunto. Fatemi, io sono Ciruzzo Tozzi, non posso stare una radio così. Ma che così, oh? Ma vergognati. Abbiamo 2 milioni di ascoltatori al giorno. Vabbè, vuoi mettere una radio 24, una radio che sta con Barbara D'Urso? Sei un cretino, guarda che ci cacciano. Questa è la radio di Confindustria, la radio di Confindustria. Sì, vabbè, diciamo tutte queste sciocchezze qua. No, ma è vero, è la radio di Confindustria, cioè è una cosa molto importante. Quelli che mandano avanti l'Italia. Quelli pieni di soldi, sì, capito? Ore, sì. È entrato il direttore nella sala regia, vedi che questo ci caccia tutti. Facci fare bella figura, poi ti dà dei soldi. Tutti. Allora ridico la domanda, speriamo che non ha sentito il direttore. Ridico la domanda. Siamo qui con Ciruzzo Tozzi. Caro Ciruzzo, cosa ne pensi di Radio 24? Ah, c'è il direttore, è presente? Sì, c'è il direttore sì, che ci ascolta. Sì. Ascolta. Direttore, vi volevo dire che la vostra radio 24 è la più grande radio di tutta l'Italia e anche non soltanto dell'Italia. Dell'Inghilterra e della Francia. Vabbè, anche se non andiamo in onda né in Inghilterra né in Francia. Sempre esagerato. E quindi Radio 24 è la radio che hai sempre ascoltato? Sempre. Pensate che a casa mia, quando ascolto per esempio Mediaset, Barbara D'Urso, eccetera, io spengo tutto. Bravo. Senti, qual è il programma preferito? Di Radio 24? Tutte e 24. No. Però il nostro programma si chiama I Fuori Posto. Pure il vostro. Allora, il nostro. La rifaccio. Sì. Qual è il tuo programma? C'è sempre il direttore che sta ascoltando. Caro Ciruzzo, no? Tra tutti i programmi bellissimi di Radio 24, qual è il tuo programma preferito? Guarda, Fuori Posto, diciamo che mi piace di più. Ottimo, oh, ecco, ottimo. Però anche dentro al posto suo. A posto suo. Ma che posto? No, ma quello è un programma che faceva Alda De Eusanio tanti anni fa. Mi piace molto il programma su Galateo che voi fate. Che non esiste. Metti le mani a posto anche. Più che altro tu dovresti mettere la bocca a posto, insomma, dovresti un attimo. Comunque, noi siamo anche qui. Anche quello che cerca del lavoro, che voi fate il lavoro, lo vuoi il posto? Come trovare posti di lavoro? Questo lo facciamo noi, insomma. Quindi certo. tu un posto di lavoro ce l'hai, no? Eri un fuori posto, ma un posto di lavoro adesso ce l'hai, no? Sì, c'è anche solo. Pensa che ieri ho fatto 8 matrimoni in un giorno. 8 matrimoni? Ma dove? In giro per l'Italia? Sì. Uno l'ho fatto a Scauri, conosci? Ah, Scauri, sì, certo. Uno certo. A Formia. Certo, giusto, buono. Uno a Cassino. Ah, quindi nel Lazio. Quindi. Poi sono tornato un'altra volta giù, un altro proprio Napoli giù, questo proprio Castellammare. Ah, Castellammare. Il Chateau Sommao. Poi? E poi un altro a Pompei. Pure. Ah, ottimo. Poi per secondo, perché talmente ne ho fatti tanti, guarda che veramente a un certo punto ho detto, mamma mia, mi sono dimenticato. Com'erano felici gli sposi, la sposa? Tu che rapporto hai con lo sposo, la sposa? Sì, appena l'hanno fatto ammazzare per vedermi, Ah, addirittura? Sono picchiati per te. Ma mo non esagerare, sei sempre il solito fanfarone, dai. Cioè. Perché tu piaci le donne, sei bello. L'hanno fatto ammazzare per vedere il mio spettacolo, per entrare a vederlo, e poi dopo un po' l'hanno fatto ammazzare. Per fatti loro, insomma. Vabbè, stendiamo. Senti, tu che rapporto instauri con la sposa, con lo sposo? Cioè, preferisci lo sposo, la sposa, chi? No, insomma, ragazzi, chi sente? Preferisco lo sposo. Io sono un professionista, preferisco la tutti e due, così com'è. Però voglio dire, se poi diciamo niente, c'è una confusione, sai, la gente fa così, tutte queste cose. Poi io prendo la sposa e gli faccio la mia dedica personale. E in cosa consiste? Che carina questa cosa. In cosa consiste la tua dedica personale? Canto una canzone alla sposa. Che canzone canti? Guarda, potrei cantare un blues, ma non glielo canto. Ottimo. Canto un rock, ma non glielo canto. E che gli canti? Un jazz, ma non glielo canto. No, che gli canto una canzone che si chiama Fammano Buchi. Come? Scusa, ripeti? No. Mi è sfuggita l'ultima parola. Fai un boogie boogie. Ah, un boogie boogie. È la canzone si chiama appunto Fammano Buchi. Ah, un boogie boogie. Sì, boogie boogie. Ottimo. Con la sposa. Faccio giusto due per sé. A me no, a te non piace rock, a te non piace blues, a te ti piace solamente. Guarda, le spose apprezzano questa tua dedica? Lei soprattutto diciamo che apprezza questa cosa, perché insomma, vabbè, apprezza, perché poi insomma ognuno c'ha la sua soddisfazione. Guarda, perché ogni volta noi perdiamo un sacco di tempo, sì, no? Qui sì, a fuori. Sì. A parlare con lui di cose che non c'entrano, che non c'entrano nulla con l'economia. Con l'economia. Ciruzzo, noi ti abbiamo ingaggiato per parlare di economia. E a tal proposito. Intanto, ragazzi, scusate, fatemi fare un po' di economia pure a me, perché se io non faccio un po' di pubblicità. Ma porca miseria, passi tutti i giorni a pubblicità, stiamo pompando. Ma non mi pagate, a me fatemi fare un po' di spettacoli. Ti diamo visibilità. No? Visibilità, ma non mi vede nessuno nella radio, no? Ma ti ascoltano, visibilità audio. Però questa cosa pure non fa la grinta. Su questo non sbaglio. Infatti, però senti, perdo molto, perché io sono uno che bisogna vedere. Bisogna vedere? Vabbè, se volete vedere Ciruzzo Tozzi, andate sulla nostra pagina Facebook e chissà quale giorno potrebbe apparire un'immagine di Ciruzzo Tozzi, no? Peraltro, somiglio molto a mio cugino Umberto. Ah sì, io Umberto Tozzi. Questa cosa? Ma cioè, è vero che siete cugini, a me sta cosa non mi torna. Domandaglielo a lui, sei onesto e sei la verità. Ma scusa, già l'altra volta... Un giorno lo chiamiamo. Già l'altra volta ci hai raccontato sta storia assurda che tu non l'hai denunciato perché ti ha copiato la canzone, no? Cioè, una roba... Io avevo fatto anche un'altra canzone, sempre. Cioè? Quale? No. Quale? Non siamo... Ti manca il fiato, non siamo... Che è uguale a Gloria, identica Gloria. Ma Gloria, cioè no, Gloria, questo non c'entra niente, ce l'abbiamo Gloria? Cioè, poi c'è un'altra che fa donna innamorata. No, vuoi dire, stai accusando, no? Umberto Tozzi dice che non solo ti ha plagiato, ti vabbè, amo, ragazzo, no? Di famiglia, dai, non facciamo queste cose. No, ma lo hai appena accusato di... plagio. Vabbè, per la seconda volta? Che poteva fare in famiglia, uno è creativo, non è che sono tutti quanti, diciamo che... No, ma scusa, scusa, Gloria è stato un successo, io me la ricordo, anzi chiedo ad Andrea se la sentiamo? Ce l'ha, perché Gloria era bellissima, mi ricordo. Bellissima, sì. È bellissima. La storia era... Eccola. Gloria, manchi tu nell'aria, manchi ad una mano. Questa bocca. No, ma poi c'è un testo così raffinato che non puoi averlo scritto tu. Non esiste, non può essere. Sì, volete sapere perché questa è la storia di una ragazza di Pompei, che lui dice mio cugino. Cioè, manchi tu nell'aria. Non si parla mai di Pompei nella canzone. Cioè, vuoi dire che Gloria è di Pompei? Sì, perché quando passava questa ragazza c'aveva la scella che era con puzzolente. Che schifo. Quando se ne andò da Pompei per andare fuori, e la canzone faceva Gloria, manchi tu nell'aria, perché voleva sottolineare il fatto che non c'era più questa puzzetta di ascella che di schifo, Gloria. Però sai che è credibile questa spiegazione, Umberto? Mi sta convincendo, Ciruzzo. Sì. Certo che... Credo che Filippo Roma è sotto l'effetto di droghe. Mi ragazzi, sta convincendo, cioè... Ciruzzo. Senti... Senti, no, parliamo di cose serie, parliamo di economia, perché perdiamo un sacco di tempo. Allora, ci scrive Martina, no? Questa sente il nome della donna, se ci dà subito, ma che è? No, Martina dice... Figurati, con tutte le donne che tengo, metto a pezzo a Martina, con tutti gli rispetti. Ma che cafone che sei, mamma mia. Perché, cosa Martina? Martina? No, Martina dice, caro Ciruzzo... Ma di dov'è Martina? Fatemi ma Martina non lo scrive, non lo scrive. Non so neanche di che città esce. Ma poi che ti interessa, dov'è? Che tu ascolta quello che ha da dire Martina. Martina dice, mi spieghi cos'è l'aggiotaggio? Ah, interessante. Come? L'aggiotaggio. Quindi? Martina, lo sei spiegata? Sì, te l'ha scritto. Lo sai, no? Mica non lo sai. Certamente, però, se permette, io non posso parlare di queste cose a tutti quanti. Se lo vuole sapere a Martina, io glielo dico a Martina in privato, va bene? Ma che vuol dire non c'è privato? Nessun bisogno. Ma siamo in una radio, siamo a Radio 24. Il problema dell'aggiotaggio interessa anche i nostri radioascoltatori, quindi non solo a Martina, spiegalo a tutti. Vabbè, ma se questa qua scrive, non sai dove abita, non sai il nome, non sai la città dove sta, io perché ci devo dire a Martina queste cose che non... Sono cose un po' particolari, va bene? Te lo voglio spiegare da vicino. No, l'aggiotaggio. Dai, ti piace l'aggiotaggio è, come è un fenomeno che sta preoccupando un po' tutti, illegale. Più di calcio, il canottaggio non è che poi tanto mi ma piace. Ma che c'entri il calcio? Aggiottaggio, che canottaggio? Che vuol dire? Non è canottaggio. Scusa, spiegando un po' la... No, non c'entra niente, non c'entra niente. Aggiotaggio. L'aggiotaggio, vabbè, ti aiuto. L'aggiotaggio è quando uno diffonde, no? Delle notizie false, no? Quando uno dice delle bugie. Vabbè, sì, più o meno siamo lì. E con queste bugie ci fa i soldi, ci fa le speculazioni in borsa. E con le bugie diciamo che si fa i soldi. Effettivamente. Un po' come fai tu, no? Un po' come fai tu, che dici che sei un cantante di successo e in realtà poi non è che... lo dico io, che lo dice il pubblico. Ma lo dici il pubblico, tua zia, tua nonna, ogni pubblico ogni volta che mi vedi dice, senti, tu sei un cantante di successo. Ma chi te lo dice? Chi te lo dice? Tutti, dici, sei il cantante di successo. No, vogliamo i nomi, dici i nomi qui a Radio 24. Anna. Poi? Mario. Poi? In ordine alfabetico? Franco. In ordine alfabetico. Dicono sempre... Ciruzzo, sei un cantante successo. Successo? Ciruzzo? Ciruzzo, anche oggi stiamo affondando miseramente, come ogni volta che parliamo con te. Qui veramente, Umberto, bisogna chiudere. Ciruzzo, vai, torna. Guarda, ci sentiamo nei prossimi giorni. Basta, ci sentiamo nei prossimi giorni. Torno sul mio successo? Bravo, torna al tuo successo. Sì, perché, torna in bagno. Perché va, di sicuro. In bagno, come permettete? Di sicuro con te noi siamo votati all'insuccesso. Scandiamo bene le parole. Guarda, allora io faccio un appello alle forze dell'ordine, andate da Ciruzzo Tozzi, perché se no questo continua a chiamarci e ci importuna qui a Radio 24. Posso fare un appello io a Martina Vestavesto? Vai, veloce, ciao. Vai. Ok, Martina, lascia pure la tua città, il tuo indirizzo, il tuo numero telefonico e ti spiego tutto che cosa va vicino. Okay? Sei un porco. No? Chiudete Ciruzzo che usa la radio per farsi gli affari suoi. Ciao Ciruzzo, ci sentiamo prossimamente. Ciao Martina, non lo so. Ciao Martina. Ma che ciao Martina? Ciao, questa è roba tua. Noi ci vediamo però sempre qui domani. Filippo, purtroppo il nostro tempo è scaduto anche per oggi. I nostri ascoltatori saranno tristissimi, ma a me dobbiamo lasciarvi, ma torniamo domani mattina alle ore 10 qua su Radio 24. Da lunedì al venerdì, i fuori posto. Ciao da Filippo Roma e Umberto Alezio.